Primo libro delle cronache. In Gabaon abitava il padre di Gabaon. Sua moglie si chiamava Maaca. Il primogenito era Abdon, poi Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achio, Zecher e Miclot. Miclot generò Simea. Anche costoro abitavano in Gerusalemme, accanto ai fratelli. Ner generò Kis. Kis generò Saul. Saul generò Jonata, Malchisua, Abinadab e Isbaal. Figlio di Jonata fu Meribbaal. Meribbaal generò Mica. Figli di Mica: Piton, Melech, Tarea e Acaz. Acaz generò Ioadda. Ioadda generò Alemet, Asmavet e Zimri. Zimri generò Moza. Moza generò Binea, di cui fu figlio Refaia, di cui fu figlio Eleasa, di cui fu figlio Azel. Azel ebbe 6 figli, che si chiamavano Azricam, Bocru, Ismaele, Searia, Abdia e Canan. Tutti questi erano figli di Azel. Figli di Esec, suo fratello, Ulam, suo primogenito, Jeus, secondo, Elifelet, terzo. I figli di Ulam erano uomini valorosi e tiratori di arco. Ebbero numerosi figli e nipoti, 150. Tutti questi erano discendenti di Beniamino. Tutti gli israeliti furono registrati per genealogie e iscritti nel libro dei re di Israele e di Giuda. Per le loro colpe furono deportati in Babilonia. I primi abitanti che si erano ristabiliti nelle loro proprietà, nelle loro città, erano israeliti, sacerdoti, leviti e oblati. In Gerusalemme abitavano figli di Giuda, di Beniamino, di Efraim e di Manasse. Figli di Giuda: Utai, figlio di Ammiud, figlio di Omri, figlio di Imri, figlio di Bani, dei figli di Perez, figlio di Giuda. Dei Siloniti: Asaia il primogenito e i suoi figli. Dei figli di Zerach: Jeuel e 690 suoi fratelli. Dei figli di Beniamino: Sallu, figlio di Mesullam, figlio di Odavia, figlio di Assenua, Ibnia, figlio di Jerocam, Ela, figlio di Uzzi, figlio di Micri, e Mesullam, figlio di Sefatia, figlio di Reuel, figlio di Ibnia. I loro fratelli, secondo le loro genealogie, erano 956. Tutti costoro erano capi delle loro famiglie. Dei sacerdoti: Jedaia, Joarib, Jachin e Azaria, figlio di Chelchia, figlio di Mesullam, figlio di Zadok, figlio di Merayot, figlio di Achitub, capo del tempio, Adaia, figlio di Jerocam, figlio di Pascur, figlio di Malchia, e Maasai, figlio di Adiel, figlio di Yakzera, figlio di Mesullam, figlio di Mesillemit, figlio di Immer. I loro fratelli, capi dei loro casati, erano 1760, uomini abili in ogni lavoro per il servizio del Tempio. Dei Leviti: Semaia, figlio di Cassub, figlio di Azricam, figlio di Casabia, dei figli di Merari. Bacbacar, Keresh, Galal, Mattania, figlio di Mica, figlio di Zicri, figlio di Asaf. Abdia, figlio di Semaia, figlio di Galal, figlio di Idutun. e Berechia, figlio di Asa, figlio di Elcana, che abitava nei villaggi dei netofatiti. Dei portieri, Sallum, Accub, Talmon, Achiman e i loro fratelli. Sallum, il capo, presta servizio ancora adesso alla porta del re ad Oriente. Questi erano i portieri dell'accampamento dei figli di Levi. Sallum, figlio di Core, figlio di Ebiasaf, figlio di Korach, e di suoi fratelli della casa di suo padre. I corachiti dovevano prestare servizio come guardiani della soglia della tenda. I loro padri erano stati preposti all'accampamento del Signore come custodi dell'ingresso. Pinchas, figlio di Eleazaro, era stato un tempo il loro capo, il Signore sia con lui. Zaccaria, figlio di Meselemia, era portiere all'entrata della tenda del convegno. Tutti coloro che erano stati scelti come portieri delle soglie erano 212. Erano iscritti nelle genealogie dei loro villaggi. Essi furono stabiliti da Davide e dal veggente Samuele grazie alla loro fedeltà. Essi ed i loro figli erano preposti alle porte del Tempio del Signore, cioè nella casa della tenda, ai posti di guardia. I portieri si trovavano ai quattro punti cardinali: Oriente, Occidente, Settentrione e Mezzogiorno. I loro fratelli, che abitavano nei villaggi, dovevano venire di tanto in tanto presso di loro per 7 giorni, perché solo quei 4 capi portieri rimanevano sempre in funzione. C'erano dei leviti preposti alle camere e ai tesori del Tempio di Dio. Passavano la notte nelle adiacenze del Tempio di Dio, perché ad essi ne incombeva la custodia e l'apertura ogni mattina. Alcuni di essi erano preposti agli oggetti del culto, che contavano quando li portavano fuori e li riportavano dentro. Altri, inoltre, erano incaricati del mobilio, di tutto il mobilio del santuario, della farina, del vino, dell'olio, dell'incenso e degli aromi. Ma erano alcuni figli di sacerdoti che preparavano la miscela per gli aromi. Uno dei leviti, Mattatia, primogenito di Sallum il corochita, era preposto in permanenza alla preparazione di ciò che si cuoce nei tegami. Alcuni dei loro fratelli, figli dei Cheatiti, avevano cura dei pani dell'offerta da preparare ogni sabato. Questi erano i cantori, capi dei casati levitici. Liberi da ogni servizio, dimoravano nelle camere, perché erano al lavoro giorno e notte. Questi erano i capi delle famiglie levitiche, secondo le loro genealogie. Essi abitavano in Gerusalemme. A Gabaon abitavano il padre di Gabaon, Jeiel, la moglie del quale si chiamava Maaca, il suo figlio primogenito Abdon, Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achio, Zaccaria e Miclot. Miclot generò Simeam. Anche costoro abitavano insieme ai loro fratelli in Gerusalemme, accanto ad essi. Ner generò Kis. Kis generò Saul. Saul generò Jonata, Malchisua, Abinadab e Isbaal. Figlio di Jonata era Merib-Baal. Merib-Baal generò Mica. Figli di Mica, Piton, Melech, Tarea. Acaz generò Jaara. Jaara generò Alemet, Azmavet e Zimri. Zimri generò Moza. Moza generò Binea, che ebbe per figlio Refaia, che ebbe per figlio Eleasa, che ebbe per figlio Azel. Azel ebbe 6 figli, e questi sono i loro nomi: Azricam, Bocru, Ismaele, Searia, Abdia e Canan. Questi erano figli di Azel. I Filistei combatterono contro Israele. Gli Israeliti si diedero alla fuga davanti ai Filistei, ma caddero feriti a morte sul monte Gelboe. I Filistei, inseguendo dappresso Saul ed i suoi figli, uccisero Jonata, Abinadab e Malchisua, figli di Saul. Poi il peso della battaglia si riversò su Saul. Gli arcieri lo scoprirono ed egli ebbe paura di fronte ad essi. Allora Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la tua spada e trafiggimi, altrimenti verranno quegli incirconcisi e si prenderanno beffe di me». Ma lo scudiero non volle, perché aveva gran timore. Allora Saul, presa la spada, si gettò su di essa. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anch'egli sulla spada e morì. Così perì Saul con i 3 figli. Tutta la sua famiglia morì con lui. Quando tutti gli israeliti della valle si accorsero che i loro erano fuggiti e che Saul ed i suoi figli erano periti, abbandonarono le loro città, dandosi alla fuga. Vennero i Filistei e vi presero dimora. Il giorno dopo, i Filistei, venuti per spogliare gli uccisi, trovarono Saul ed i suoi figli che giacevano morti sul monte Gelboe. Lo spogliarono portandogli via la testa e le armi. Quindi inviarono messaggeri per tutta la regione filistea ad annunciare la buona novella ai loro idoli ed al popolo. Depositarono le sue armi nel tempio del loro dio, mentre inchiodarono il suo cranio nel tempio di Dagon. Quando gli abitanti di Jabes ebbero appreso tutto ciò che i Filistei avevano fatto a Saul, si levarono tutti i guerrieri, prelevarono il cadavere di Saul ed i cadaveri dei suoi figli e li trasportarono a Jabes. Indi seppellirono le loro ossa sotto il terebinto di Jabel e digiunarono per 7 giorni. Saul morì a causa della sua infedeltà commessa contro il Signore, giacché non aveva osservato la parola del Signore e perché aveva consultato una negromante per interrogarla. Non aveva consultato il Signore, che lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figlio di Jesse. Tutto Israele si radunò presso Davide a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già nel passato, quando c'era re Saul, tu guidavi Israele nei suoi movimenti. Inoltre, il Signore tuo Dio ti ha promesso: tu pascolerai il mio popolo Israele e sarai principe sul mio popolo Israele». Tutti gli anziani d'Israele si radunarono presso il re a Ebron, e Davide concluse con essi un patto in Ebron, al cospetto del Signore. Allora unsero Davide come re su Israele, secondo la parola del Signore pronunciata per mezzo di Samuele. Davide, con tutto Israele, marciò contro Gerusalemme, cioè Jebus. Ivi risiedevano i Jebusei, abitanti della regione. Gli abitanti di Jebus dissero a Davide: «Non entrerai qui». Ma Davide espugnò la fortezza di Sion, che è la città di Davide. Egli aveva detto: «Chiunque colpirà per primo i Jebusei diventerà capo e principe». Salì per primo Joab, figlio di Zeruia, che divenne così capo. Davide si stabilì nella fortezza, che per questo fu chiamata città di Davide. Riedificò poi la città tutt'intorno, dal Millo fino alla periferia, mentre Joab restaurò il resto della città. Davide

Nacrai di Berot, scudiero di Joab, figlio di Zeruia, Ira di Jeter, Gareb di Jeter, Uria Littita, Zabad, figlio di Aclai, Adina, figlio di Siza il Rubenita, capo dei Rubeniti, e con lui altri 30. Canan, figlio di Maaca, Josaphat di Meten, Uzia di Astarot, Sama e Jeiel, figli di Cotam, di Aroer, Jediael, figlio di Simri, e Ioca, suo fratello, di Tisi, Eliel di Macavim, Ieribai e Osea, figli di Elnaam, Itma il Moabita, Eliel, Obed e Jaasiel di Zoba. Questi sono gli uomini che andarono da Davide a Ziclag quando era ancora bandito dalla presenza di Saul, figlio di Chis. Essi erano i prodi che lo aiutavano in guerra. Usavano l'arco e si servivano della mano destra e della sinistra per lanciare pietre e per tirare frecce con l'arco. Erano della tribù di Beniamino, fratelli di Saul. Achiezer, il capo, e Joas, figli di Semaa, di Gaba. Jeziel e Pelet, figli di Azmavet. Beraca e Jeu, di Anatot. Ismaia di Gabaon, prode fra i 30 e capo dei 30. Geremia, Iacaziel, Giovanni e Josabat di Gedera. Eleusai, Ierimot, Bealia, Semaria, Sefatia di Carif. Elcana, Issia, Azarel, Joezer, Josgibeam, Corachiti. Oela e Zebadia, figli di Jeroam, di Gedor. Dei Gaditi, alcuni uomini passarono a Davide nella fortezza del deserto. Erano uomini prodi, guerrieri pronti a combattere, che maneggiavano lo scudo e la lancia. Avevano l'aspetto del leone ed erano agili come le gazzelle sui monti. Ezer era il capo, Abdia il secondo, Eliab il terzo, Mismanna il quarto, Geremia il quinto, Attai il sesto, Eliel il settimo, Giovanni l'ottavo, Elzabad il nono, Geremia il decimo, Macbannai l'undicesimo. Costoro erano discendenti di Gad, capi dell'esercito. Il minore comandava 100 e il maggiore 1000. Questi sono coloro che passarono il Giordano nel primo mese, mentre dilagava su tutte le rive, e misero in fuga tutti gli abitanti delle vallate, ad oriente e ad occidente. Alcuni dei figli di Beniamino e di Giuda andarono da Davide fino alla fortezza. Questi mosse loro incontro e, presa la parola, disse loro: «Se siete venuti da me con propositi di pace per aiutarmi, sono disposto ad unirmi a voi. Ma se è per tradirmi e consegnarmi ai miei avversari, benché le mie mani non abbiano commesso nessun atto di violenza, lo veda il Dio dei nostri padri e lo punisca». Allora lo spirito investì Amasai, capo dei 30. «Siamo tuoi, Davide, con te, figlio di Jesse. Pace, pace a te e pace a chi ti aiuta, perché è il tuo Dio che ti aiuta». Davide li accolse e li costituì capi delle schiere. Alcuni di Manasse passarono a Davide quando, insieme ai Filistei, marciava in guerra contro Saul. Egli poi non aiutò costoro, perché, tenendo consiglio i principi dei Filistei, lo rimandarono dicendo: «A prezzo delle nostre teste egli passerà a Saul, suo signore». Mentre si dirigeva verso Ziclag, passarono a lui da Manasse Adnac, Iosabad, Jediael, Michele, Iosabad, Eliu e Zilletai, capi di migliaia nella tribù di Manasse. Costoro aiutarono Davide contro i banditi, perché erano tutti uomini valorosi e divennero capi dell'esercito. Ogni giorno, infatti, alcuni passavano a Davide per aiutarlo, cosicché il suo risultò un accampamento gigantesco. Queste sono le cifre dei capi equipaggiati per l'esercito che passarono a Davide in Hebron, per trasferirgli, secondo l'ordine del Signore, il regno di Saul. Dei figli di Giuda, portanti scudo e lancia, 6.800 armati. Dei figli di Simeone, uomini valorosi in guerra, 7.100. Dei figli di Levi, 4.600. Inoltre, Ioiada, principe della famiglia di Aronne, e con lui 3.700. E Zadok, giovane valoroso, e il suo casato, con i suoi 22 principi. Dei figli di Beniamino, fratelli di Saul, 3.000. Fino allora la maggior parte di essi era rimasta al servizio della casa di Saul. Dei figli di Efraim, 20.800 uomini valorosi, rinomati nei loro casati. Della mezza tribù di Manasse, 18.000, designati singolarmente per partecipare alla nomina di Davide a re. Dei figli di Issacar, che conoscevano bene i tempi e sapevano che cosa doveva fare Israele, 200 capi e tutti i loro fratelli ai loro ordini. Di Zabulon, 50.000 uomini arruolati in un esercito pronti per la battaglia con tutte le armi da guerra e disposti ad aiutare senza doppiezza. Di Neftali, 1.000 capi e con essi 37.000 uomini equipaggiati di scudo e di lancia. Dei Daniti, 28.600 uomini pronti per la battaglia. Di Aser, 40.000 arruolati in un esercito pronti per la battaglia. Della Transgiordania, cioè dei Rubeniti, dei Gaditi e della mezza tribù di Manasse, 120.000 uomini dotati di tutte le armi da guerra. Tutti costoro, guerrieri pronti a marciare, si presentarono con cuore sincero in Hebron per proclamare Davide re su tutto Israele. Anche tutto il resto di Israele era unanime nel proclamare re Davide. Rimasero là con Davide 3 giorni, mangiando e bevendo quanto i loro fratelli avevano provveduto per loro. Anche i loro vicini, e persino da Issacar, da Zabulon e da Neftali, avevano portato viveri ad orso di asini, cammelli, muli e buoi, approvvigionamenti di farina, pizze di fichi secchi, uva passa, vino, olio e bestiame grosso e minuto in abbondanza, perché c'era festa in Israele. Davide tenne consiglio con i capi di migliaia e di centinaia, con tutti i principi. A tutta l'assemblea di Israele Davide disse: «Se vi sembra bene, e se il Signore, nostro Dio, lo consente, comunichiamo ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele, e con loro anche ai sacerdoti e ai leviti nelle città della loro residenza, di radunarsi presso di noi. Allora riporteremo l'arca del nostro Dio presso di noi, perché non ce ne siamo curati sin dal tempo di Saul». Tutta l'assemblea approvò di fare così, perché la proposta parve giusta agli occhi di tutto il popolo. Davide convocò tutto Israele, da Sicor d'Egitto fino all'ingresso di Amat, per riportare l'arca di Dio da Kiriat Jearim. Davide, con tutto Israele, salì a Bala verso Kiriat Jearim, che apparteneva a Giuda, per prendere di là l'arca di Dio, che portava il nome «Il Signore che siede sui cherubini». Dalla casa di Abinadab trasportarono l'arca di Dio su un carro nuovo. Uzza e Achio guidavano il carro. Davide e tutto Israele danzavano davanti a Dio con tutto l'entusiasmo, cantando e suonando cetre, arpe, tamburi, cembali e trombe. Giunti all'aia di Chidon, Uzza stese la sua mano per trattenere l'arca perché i buoi l'avevano fatta barcollare. Allora l'ira del Signore si infiammò contro Uzza e lo colpì perché aveva steso la sua mano sull'arca. Egli morì lì al cospetto di Dio. Davide si afflisse perché il Signore si era irritato contro Uzza e chiamò quel luogo Perez Uzza fino al giorno d'oggi. In quel giorno Davide, avendo avuto paura di Dio, esclamò: «Come potrei far condurre presso di me l'arca di Dio?» Davide non fece trasportare l'arca presso di sé nella città di Davide, ma la diresse verso la casa di Obed-Edom di Gat. L'arca di Dio rimase nella casa di Obed-Edom 3 mesi. Il Signore benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva. Chiram, re di Tiro, inviò dei messaggeri a Davide con legname di cedro, muratori e falegnami per costruirgli una casa. Allora Davide riconobbe che il Signore l'aveva stabilito re su Israele, perché il suo regno, a causa del suo popolo d'Israele, era grandemente esaltato. Davide si prese altre mogli in Gerusalemme e generò figli e figlie. Questi sono i nomi dei figli che ebbe Davide in Gerusalemme: Sammua, Sobab, Natan, Salomone, Ibcar, Elisua, Elipelet, Noga, Nefeg, Iafia, Elisama, Beeliada ed Elifelet. Quando i Filistei appresero che Davide era stato unto re su tutto Israele, salirono tutti per ricercarlo. Saputolo, Davide uscì loro incontro. I Filistei, appena giunti, si sparpagliarono per la vallata di Refaim. Davide consultò Dio così: «Se io marcerò contro i Filistei, tu li consegnerai in mio potere?» Il Signore gli rispose: «Marcia, ed io li consegnerò in tuo potere». Quelli salirono a Baal Perazim, e quivi Davide li sconfisse. Questi allora disse: «Dio ha aperto per mio mezzo una breccia tra i miei nemici, come una breccia prodotta dall'acqua». Perciò mise a questo luogo il nome di Baal Perazim. I Filistei abbandonarono ivi i loro idoli e Davide ordinò che venissero bruciati nel fuoco. Ancora una volta i Filistei ricominciarono a sparpagliarsi per la vallata. Di nuovo Davide consultò Dio, che gli rispose: «Non salire dietro di loro. Aggirali a distanza per raggiungerli dalla parte di Becaim. Quando sentirai un rumore di passi fra le cime degli alberi, allora uscirai a combattere, perché Dio uscirà davanti a te per sconfiggere il campo dei Filistei». Davide fece come Dio gli aveva ordinato e sconfisse l'esercito dei Filistei da Gabaon fino a Gezer. La fama di Davide si diffuse in tutti i paesi, mentre il Signore lo rendeva temibile fra tutte le nazioni. Davide si costruì edifici nella città di Davide. preparò un posto per l'arca di Dio e le eresse una tenda. Allora Davide disse: «Per portare l'arca di Dio non ci sono che i Leviti, giacché il Signore scelse costoro per portare l'arca del Signore ed essere per sempre al suo servizio». Davide convocò tutto Israele in Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e di Leviti. Dei figli di Cheat, Uriel, il principe, con i suoi 120 fratelli. Dei figli di Merari, Asaia, il principe, con i suoi 220 fratelli. Dei figli di Gersom, Gioele, il principe, con i suoi 130 fratelli. Dei figli di Elisafan, Semaia, il principe, con i suoi 200 fratelli. Dei figli di Ebron, Eliel, il principe, con i suoi 80 fratelli. Dei figli di Uzziel, Amminadab, il principe, con i suoi 112 fratelli. Davide chiamò i sacerdoti Zadok ed Ebiatar, ed i leviti Uriel, Asaia, Gioele, Semaia, Eliel e Amminadab, e disse loro: «Voi siete i capi dei casati dei leviti. Santificatevi voi ed i vostri fratelli, e poi trasportate l'arca del Signore Dio d'Israele nel posto che io le ho preparato, perché la prima volta non c'eravate, e il Signore nostro Dio si irritò con noi, perché non l'abbiamo consultato secondo la regola». Pertanto i sacerdoti ed i leviti si santificarono per trasportare l'arca del Signore Dio d'Israele. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe che poggiavano su di loro, come aveva ordinato Mosè, secondo la parola del Signore. Davide aveva ordinato ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli cantori con i loro strumenti musicali, arpe, cetre e cembali, perché li facessero risuonare a gran voce in segno di gioia. I Leviti destinarono Eman, figlio di Gioele, e tra i suoi fratelli Asaf, figlio di Berechia. Tra i figli di Merari, loro fratelli, Etan, figlio di Cusaia. Con loro c'erano i fratelli di secondo grado, Zaccaria, Uzziel, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliel, Benaia, Maaseia, Mattatia, Elifel, Micneia, Obed-Edom e Jeiel, portieri. I cantori Eman, Asaf ed Etan usavano squillanti cembali di bronzo. Zaccaria, Uzziel, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maaseia e Benaia suonavano arpe per voci di soprano. Mattatia, Elifel, Micneia, Obed-Edom, Jeiel e Azaria suonavano le cetre sull'ottava per dare il tono. Chenania, capo dei Leviti trasportatori, dirigeva il trasporto, perché in ciò era esperto. Berechia e Elcana fungevano da portieri presso l'arca. I sacerdoti Sebania, Giosafat, Netaneel, Amasai, Zaccaria, Benaia e Eliezer suonavano le trombe davanti all'arca di Dio, mentre Obed-Edom e Jechiel fungevano da portieri presso l'arca. Allora Davide, gli anziani di Israele e i capi di migliaia procedettero a trasportare con gioia l'arca dell'alleanza del Signore dalla casa di Obed-Edom. Poiché Dio veniva in aiuto dei Leviti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, si offrirono in sacrificio 7 giovenchi e 7 arieti. Davide era rivestito di un manto di pisso, come anche tutti i Leviti portatori dell'arca, i cantori e Chenania, capo del trasporto. Davide, inoltre, portava un efod di lino.

Voglio acquistarlo per il suo pieno valore in denaro, giacché non intendo prendere ciò che appartiene a te per offrirlo al Signore in olocausto gratuitamente. Davide diede ad Ornan per il terreno il prezzo di 600 sicli d'oro. Quivi Davide eresse un altare al Signore, vi offrì olocausti e sacrifici pacifici ed invocò il Signore, il quale rispose con il fuoco disceso dal cielo sull'altare dell'olocausto. Allora il Signore ordinò all'angelo e questi rimise la sua spada nel fodero. In quel tempo, vedendo Davide che il Signore l'aveva esaudito nell'aia di Ornan il Gebuseo, offrì ivi un sacrificio. La dimora del Signore, eretta da Mosè nel deserto, e l'altare dell'olocausto si trovavano in quel tempo sull'altura di Gabaon. Ma Davide non osava recarsi colà per consultare Dio, perché aveva avuto molta paura davanti alla spada dell'angelo del Signore. Perciò Davide disse: «Questa è la casa del Signore Dio, e questo è l'altare per gli olocausti d'Israele». Allora Davide ordinò di radunare gli stranieri che si trovavano nel territorio d'Israele e diede incarico agli scalpellini di squadrare pietre per la costruzione della casa di Dio. Davide preparò ferro in abbondanza per i chiodi dei battenti delle porte e per le grappe di ferro, bronzo in tale abbondanza da non potersi pesare. Il legname di cedro non si contava, giacché quelli di Sidone e di Tiro avevano inviato a Davide legname di cedro in abbondanza. Davide pensava: «Salomone, mio figlio, è giovane e debole, mentre la casa da costruirsi al Signore deve essere estremamente magnifica, sì da meritare rinomanza e gloria in tutti i paesi. Voglio perciò fare i preparativi per lui». Così Davide, prima di morire, fece abbondanti preparativi. Quindi chiamò suo figlio Salomone e gli ordinò di costruire un tempio al Signore, Dio d'Israele. Davide disse a Salomone: «Figlio mio, io avevo in animo di costruire un tempio al nome del Signore mio Dio. Ma mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: hai effuso sangue in abbondanza e fatto grandi guerre. Perciò non edificherai un tempio al mio nome, perché hai versato sangue in abbondanza sulla terra davanti a me. Ecco, ti nascerà un figlio. Egli sarà un uomo pacifico. Gli concederò la tranquillità da parte di tutti i suoi nemici che lo circondano. Egli si chiamerà Salomone e nei suoi giorni darò pace e tranquillità ad Israele. Egli costruirà un tempio al mio nome. Egli sarà per me un figlio ed io sarò per lui un padre. Stabilirò il trono del suo regno su Israele per sempre. Ora, figlio mio, il Signore sia con te, perché tu riesca a costruire un tempio al Signore tuo Dio, come ti ha promesso. Solamente si degni il Signore concederti senno ed intelligenza, affinché tu possa stare alla testa d'Israele per osservare la legge del Signore tuo Dio. Allora avrai successo, se avrai cura di praticare i precetti e le norme che il Signore prescrisse a Mosè riguardo ad Israele. Sii forte e coraggioso, non temere e non abbatterti. Ecco, con fatica ho preparato per il tempio del Signore 100.000 talenti d'oro, 1.000.000 di talenti d'argento, bronzo e ferro da non potersi pesare per la quantità. Inoltre ho preparato legname e pietre, tu ne aggiungerai ancora.

ed egli ha preso dimora per sempre in Gerusalemme. Anche i Leviti non avranno più da trasportare la dimora con tutte le suppellettili per il suo servizio. Secondo le ultime disposizioni di Davide, si fece il censimento dei figli di Levi dai 20 anni in su. Il loro posto, infatti, è di stare accanto ai figli di Aronne per il servizio del Tempio del Signore, in ciò che riguarda i cortili, le camere, la purificazione di ogni cosa sacra e l'attività del servizio del Tempio di Dio. Inoltre, ciò che riguarda il pane dell'offerta, il fior di farina per l'oblazione, le focacce azzime, ciò che è cotto nella teglia o in triso, e tutte le misure di capacità e lunghezza. Ogni mattino dovevano presentarsi per celebrare e lodare il Signore, così pure alla sera, e ogni volta che si offrono olocausti al Signore, nei sabati, nei novi luni, nelle solennità, secondo il numero fissato loro dalla regola, sempre davanti al Signore. Essi, inoltre, assicuravano la sorveglianza della tenda del convegno e la sorveglianza del santo e l'assistenza dei figli di Aronne, loro fratelli, a servizio del Tempio del Signore. Anche i figli di Aronne avevano le loro classi. Figli di Aronne furono Nadab, Abiu, Eleazaro e Itamar. Nadab e Abiu morirono prima del loro padre, senza lasciare figli. Perciò il sacerdozio fu esercitato da Eleazaro e Itamar. Davide, insieme a Zadok, dei figli di Eleazaro, e ad Achimelech, dei figli di Itamar, li divise in classi, secondo il loro servizio. Poiché risultò che i figli di Eleazaro avevano una somma di uomini maggiore che non i figli di Itamar, vennero suddivisi così: 16 capi di casati per i figli di Eleazaro, 8 capi di casati per i figli di Itamar. Questi, come quelli, vennero suddivisi a sorte, perché sia tra i figli di Eleazaro che tra quelli di Itamar c'erano dei capi del santuario e dei capi di Dio. Lo scriba Semaia, figlio di Netaneel, levita, li iscrisse alla presenza del re, dei capi, del sacerdote Zadok, di Achimelech, figlio di Ebiatar, dei capi dei casati sacerdotali e levitici. Si sorteggiavano 2 casati per Eleazaro ed 1 per Itamar. La prima sorte toccò a Joarib, la seconda a Jedia, la terza a Karim, la quarta a Seorim, la quinta a Malchia, la sesta a Miamin, la settima a Accoz, l'ottava ad Abia, la nona a Giosuè, la decima a Secania, l'undecima a Eliasib, la dodicesima a Iachim, la tredicesima a Cuppa, la quattordicesima a Isbaal, la quindicesima a Bilga, la sedicesima a Immer, la diciassettesima a Chezir, la diciottesima a Appizes, la decimanona a Petachia, la ventesima a Ezechiele, la ventunesima a Iachin, la ventiduesima a Gamul, la ventitreesima a Delaia, la ventiquattresima a Maazia. Queste furono le classi per il loro servizio: entrare nel Tempio del Signore conformemente alla loro regola trasmessa da Aronne, loro padre, come gli aveva ordinato il Signore, Dio d'Israele. Quanto agli altri figli di Levi, per i figli di Amram c'era Subael, per i figli di Subael Jechdia. Quanto a Recabia, il capo dei figli di Recabia era Issia, per gli Iseariti Selomot, per i figli di Selomot Jacat, figli di Ebron Ieria il primo, Amaria secondo, Jacaziel terzo, Jecameam quarto, figli di Uziel Mica, per i figli di Mica Samir,

ad Eliata, con i figli e i fratelli, 12. La ventunesima a Cotir, con i figli e i fratelli, 12. La ventiduesima a Giddalti, con i figli e i fratelli, 12. La ventitreesima a Macaziot, con i figli e i fratelli, 12. La ventiquattresima a Romamtiezer, con i figli e i fratelli, 12. Per le classi dei portieri, ai Coriti apparteneva Meselemia, figlio di Core, dei discendenti di Ebiasaf. Figli di Meselemia, Zaccaria il primogenito, Jediael il secondo, Zebadia il terzo, Yatniel il quarto, Elam il quinto, Giovanni il sesto, Elioenai il settimo. Figli di Obed-Edom, Semaia il primogenito, Josabad il secondo, Jaok il terzo, Sacar il quarto, Netaneel il quinto, Ammiel il sesto, Issacar il settimo, Peulletai l'ottavo, poiché Dio aveva benedetto Obed-Edom. A Semaia, suo figlio, nacquero figli che signoreggiavano nel loro casato, perché erano uomini valorosi. Figli di Semaia, Otni, Raffaele, Obed, Elzabad con i fratelli, uomini valorosi, Eliu e Semachia. Tutti costoro erano discendenti di Obed-Edom. Essi e i figli e i fratelli, uomini valorosi, erano adattissimi per il servizio. Per Obed-Edom, 62 in tutto. Meselemia ne aveva 18, tra figli e fratelli, tutti uomini valorosi. Figli di Cosà, dei discendenti di Merari. Simri, il primo, non era primogenito, ma suo padre lo aveva costituito capo. Chelchia era il secondo, Tebalia il terzo, Zaccaria il quarto. Totale dei figli e fratelli di Cosà, 13. Queste classi di portieri, secondo i vari capi, avevano il compito, al pari dei loro fratelli, di prestare servizio nel Tempio del Signore. Si gettarono le sorti per il piccolo e per il grande, secondo i loro casati, una porta per ciascuno. Per il lato orientale, la sorte cadde su Selemia. Per Zaccaria, suo figlio, consigliere assennato, si tirò a sorte e gli toccò il lato settentrionale. A Obed-Edom toccò il lato meridionale e dai suoi figli i magazzini. A Suppim e a Cosà toccò il lato occidentale con la porta Salleket sulla via della salita. Un posto di guardia era proporzionato all'altro. Al lato orientale erano fissi 6 uomini ogni giorno, a quello settentrionale 4 per giorno, a quello meridionale 4 per giorno, ai magazzini 2 per ciascuno. Al Parbar, verso occidente, ce n'erano 4 per la strada e 2 per il Parbar. Queste sono le classi dei portieri tra i discendenti di Core, figli di Merari. I Leviti, loro fratelli, incaricati dei tesori del Tempio di Dio e dei tesori delle cose consacrate, erano figli di Ladan, gersoniti secondo la linea di Ladan. I capi dei casati di Ladan il gersonita erano gli Jechieliti. I figli di Jechiel, Zetam e Gioele, suo fratello, erano preposti ai tesori del Tempio del Signore. Tra i discendenti di Amram, di Isear, di Ebron e di Uziel, Subael, figlio di Gerson, figlio di Mosè, era sovrintendente dei tesori. I suoi fratelli nella linea di Eliezer erano Recabia, suo figlio, Isaia, suo figlio, Ioram, suo figlio, Zicri, suo figlio, e Selomit, suo figlio. Questo Selomit, con i suoi fratelli,

i capi e tutto il popolo sono ai tuoi ordini. Il re Davide disse a tutta l'assemblea: Salomone, mio figlio, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane e debole, mentre l'impresa è grandiosa, perché non si tratta di una fortezza destinata ad un uomo, ma al Signore Dio. Secondo le mie forze, ho preparato per il tempio del mio Dio oro su oro, argento su argento, bronzo su bronzo, ferro su ferro, legname su legname, onici, brillanti, topazi, pietre di vario valore, pietre preziose e marmo bianco in gran quantità. Inoltre, per il mio amore verso il tempio del mio Dio, quanto possiedo in oro ed argento, dono al tempio del mio Dio, in più di tutto ciò che ho preparato per il tempio santo. 3.000 talenti d'oro, dell'oro di Ofir, e 7.000 talenti di argento raffinato per rivestire le pareti degli edifici. L'oro per gli oggetti d'oro, l'argento per gli oggetti d'argento e per tutti i lavori da eseguirsi dagli artigiani. E chi è disposto oggi ad offrire volontariamente al Signore? Allora i capi famiglia, i capi delle tribù di Israele, i capi di migliaia, di centinaia e i dirigenti degli affari del re fecero delle offerte volontarie e diedero per l'opera del Tempio del Signore 5.000 talenti d'oro, 10.000 darici, 10.000 talenti d'argento, 18.000 talenti di bronzo e 100.000 talenti di ferro. Quanti si trovarono possessori di pietre preziose, le consegnarono nelle mani di Jechiel il Gersonita, per deporle nel tesoro del Tempio del Signore. Il popolo si rallegrò per la loro liberalità, perché con cuore puro avevano fatto le loro offerte volontarie al Signore, ed anche il re Davide ne ebbe una grande gioia. Davide benedisse il Signore al cospetto di tutta l'assemblea, esclamando: Benedetto sei tu, Signore Dio d'Israele, nostro Padre, per tutta l'eternità. Tua, o Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, l'eternità, lo splendore, perché tuo è tutto ciò che si trova nel cielo e sulla terra. Tuo, Signore, è il regno, e tu ti innalzi sovranamente al di sopra di ogni cosa. Da te vengono la ricchezza e la gloria, tu domini tutto, nella tua mano sono la potenza e la forza, tu hai il potere di rendere grande e potente ogni cosa. Ora, Dio nostro, noi ti celebriamo e lodiamo il tuo nome glorioso. E chi sono io? E chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti questi doni volontari? Tutto viene da te, e dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato. Difatti, noi siamo stranieri davanti a te, e pellegrini come tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come ombra, e non c'è speranza. Signore, nostro Dio, tutta questa quantità che abbiamo preparato per costruire un tempio a te, cioè al tuo santo nome, viene da te, tutto è tuo. So, mio Dio, che tu scruti i cuori ed ami la rettitudine. Nella sincerità del mio cuore, io ho offerto spontaneamente tutte queste cose. Ora vedo il tuo popolo che si trova qui presente, presentarti con gioia le sue offerte spontanee. Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, conserva per sempre questo sentimento nel cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di te. A Salomone, mio figlio, dona un cuore integro per osservare i tuoi comandamenti, i tuoi precetti ed i tuoi statuti, e li metta tutti in pratica, e costruisca l'edificio per il quale ho fatto i preparativi. Poi Davide disse a tutta l'assemblea: benedite dunque il Signore vostro Dio. Tutta l'assemblea benedisse il Signore, Dio dei loro padri. Si inchinarono e si prostrarono davanti al Signore e al re. Quindi immolarono sacrifici al Signore, e il giorno seguente offrirono olocausti al Signore. 1000 giovenchi, 1000 arieti, 1000 agnelli con le relative libazioni ed altri sacrifici in gran numero per tutto Israele. In quel giorno mangiarono e bevettero al cospetto del Signore con grande gioia. Di nuovo proclamarono re Salomone, figlio di Davide, ed unsero lui come principe per il Signore e Zadok come sacerdote. Salomone sedette sul trono del Signore come re al posto di Davide, suo padre. Ebbe successo e tutto Israele gli obbedì. Tutti i capi, i prodi ed anche tutti i figli del re Davide si sottomisero al re Salomone. Il Signore rese assai grande Salomone al cospetto di tutto Israele e gli diede una maestà regale che prima di lui non ebbe alcun re in Israele. Davide, figlio di Jesse, aveva regnato su tutto Israele. Il tempo che regnò su Israele fu di 40 anni. A Ebron regnò 7 anni ed in Gerusalemme regnò 33 anni. Morì in prospera vecchiezza, sazio di giorni, di ricchezza e di gloria. Al suo posto divenne re Salomone. Le gesta del re Davide, le prime come le ultime, ecco, si trovano scritte negli atti del veggente Samuele, negli atti del profeta Natan e negli atti del veggente Gad, con tutto ciò che concerne il suo regno, la sua potenza e gli eventi che accaddero a lui, ad Israele e a tutti i regni degli altri paesi. Thank you.